La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Dici Italia-Spagna e pensi a una finale mondiale, invece c'è un'Italia-Spagna anche nel cinema questa settimana, con il thriller psicologico e sociale Hogar, l'Alex delle Iglesia che non ti aspetti col suo film su Leo Messi e il road movie tra Italia e Portogallo, sempre Iberia, è un figlio di nome Erasmus. Ma c'è anche l'America degli squali, quelli con gli occhi di ghiaccio, come Kevin Costner, protagonista della serie Yellowstone. La resistenza cinefila continua, a casa di Giorgio Pasotti, bergamasco di origini, che ci racconterà come sta passando le giornate nella sua casa di Roma, ma col cuore in Città Alta. Giocheremo col nostro film misterioso e vi porteremo a zonzo nei palinsesti delle TV e delle piattaforme, a scoprire tutto il cinema che c'è. Questa è La Rosa Purpurea, io sono Franco D'Assisi, possiamo cominciare subito con la nuova onda spagnola. Due settimane fa vi avevamo parlato di El Hoyo, ora su Netflix arriva Hogar. Il puesto che tenemos libre es para gente que empieza. Ya, bueno, pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento. Perdere il lavoro a 50 anni, una piaga contemporanea, perché a 50 anni, anche se sei bravo, se hai un sacco di esperienza, sai gestire un gruppo, ti dicono che sei vecchio, che serve altro, carne fresca, spesso carne da macello, possibilmente gratis o a buon mercato. È quel che accade a Javier, magistralmente interpretato da Javier Gutiérrez, due volte premio Goya, l'Oscar spagnolo, il primo per il meraviglioso La Isla Minima, pubblicitario dal curriculum pesante, con gran voglia di ricominciare, umile, disponibile, ma no. Lo sento, gli dice il pischello che gli fa il colloquio e magari gli offre un contratto da stagista. Umiliato e incazzato per la perdita del suo status sociale ed economico, Javier accetta malvolentieri il trasferimento in una casa più piccola e periferica, il lavoro umile della moglie che la sera puzza di candeggina. Javier non ci sta e se la prende con la cosa che più di tutte gli ricorda e rappresenta i fasti dai quali non sa e non vuole staccarsi. L'attico con meravigliosa vista sul centro di Barcellona e la famiglia che gli è subentrata. Ricordate l'Antonio Albanese di Giorni e nuvole di Soldini o il Vincent, protagonista di A tempo pieno di Laurent Canté? Ecco, Javier potrebbe essere il protagonista di quei film, solo che invece di limitarsi a tacere la propria disoccupazione alla moglie, si trasforma in uno psicopatico ossessivo. Cosa nella quale non si è ancora per fortuna trasformato Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, un thriller ad alto potenziale con un grande attore che denuncia però forse qualche falla di sceneggiatura, diciamo qualche carenza di movente nel crescendo finale. È oggetto interessante questo dei fratelli Pastor, tra l'altro registi di altissimo livello. Ironia della sorte, forse il loro film migliore è Contagion del 2009, che anticipava insomma un po' come quello di Soderbergh, e più o meno nello stesso periodo il racconto di pandemie e virus letali, che è sempre stato insomma il loro core business, in qualche modo la loro ossessione. Qui in qualche modo c'è un virus, perché c'è il personaggio, il protagonista, interpretato da Javier Gutiérrez, già premio Goya, faccia pazzesca, talento incredibile. Questo film, anche nelle sue imperfezioni, si tiene in piedi perché lui è clamoroso, è un attore veramente eccezionale. E qui non sbaglia quasi nulla, perché interpreta la sua normalità fallita, tra virgolette, di uomo, di cinquantenne, di grande talento e grande lavoratore, e che si è sacrificato molto e che in qualche modo sente su di sé il peso di una società ingiusta che lo tira fuori dal mercato del lavoro, e anche però la follia che piano piano si appropria della sua vita. Hogar lo potremmo definire una sorta di Parasite catalano, in cui quella mediocrità insopportabile, parassitaria di Parasite, appunto, diventa invece un virus attivo, un elemento che entra nel tuo organismo per sconfiggerti, per ucciderti, non per impadronirsene. È più autodistruttivo. E anche il frutto dell'ossessione è l'uomo che ha preso il tuo posto nella tua casa, in quella che tu consideravi la tua casa, che era lo status symbol di ciò che eri e di ciò che non sei più, quella che tua moglie ti ha spinto ad abbandonare perché non ve la potevate più permettere. E questa, siamo abituati alle case possedute da uno spirito, qui invece la casa è posseduta dal legittimo proprietario, che però ha sbagliato scelta, e soprattutto colui che vuole cacciarlo dalle quattro mura è un uomo in carne ed ossa e non uno spirito, un uomo in carne ed ossa che vuole rientrare in quelle mura e non uno spirito che magari ne vuole uscire. Film interessante anche per la riflessione che fa sulla società, la riflessione politica, il fatto che ci scontriamo tra poveri, che preferiamo la guerra tra poveri che combattere il sistema. Il personaggio di Javier preferisce prendersela con Thomas, tra l'altro interpretato da questo belloccio. Questa sorta di Raul Bova iberico che ha una certa fissità di espressione, che però è perfetta per raccontare il proprio stereotipo, lo stereotipo dell'uomo perfetto, e appunto preferisce raccontare questa guerra tra poveri di quanto noi preferiamo la guerra tra poveri piuttosto che andare contro il sistema, piuttosto che davvero riuscire a combattere ciò che abbiamo di fronte, ciò che rende la nostra vita ingiusta. Il film funziona grazie a Javier Gutiérrez. I fratelli Pastore non sono felici come nei loro film precedenti. A volte perdono ritmo, a volte si innamorano troppo anche della perfidia del proprio personaggio, che però è un personaggio che anche, non dico sensi di colpa, ma in qualche modo si crea l'alibi di questa vita che non sta andando nel modo giusto, però è anche molto cinico, è un ex pubblicitario. E applica, diciamo, le sue conoscenze professionali anche a una gestione manageriale della sua follia e del suo progetto. È molto interessante anche il doppio piano di lettura che c'è tra lui che racconta a delle persone ignare quello che sta facendo, senza dire cosa sta facendo, ma chiamandolo progetto, e quanto sia importante per lui e in generale per chiunque portare avanti un obiettivo chiaro. Verso la fine cercano i registi, secondo me, una soluzione troppo facile, una non soluzione. Ne esce fuori un film che poteva essere da 9 e che invece è un film da 7, ma che va bene e che vi lascerà un po' con la mano in bocca. E purtroppo molti di noi si ritroveranno, si immedesimeranno anche in questo film. Aquí cada mes de alquiler es una sangría. Es nuestra casa. ¿Y hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son cuatro paredes. E questo era Hogar su Netflix. Linea ora alla regia. Fra poco si parte per un altro viaggio a destinazione Portogallo alla ricerca di un figlio di nome Erasmus. Ci accompagnerà il regista Alberto Ferrari. A fra poco. La rosa purpurea. Era il 1999, facevamo l'Erasmus in Portogallo. Hanno telefonato, dice che è morta la signora Amalia Fernandez. Lei era la nostra fidanzata comune. Amalia ha lasciato qualcosa per voi. Ehi, baby, dobbiamo sapere chi di voi è il padre biologico del ragazzo. Abbiamo una settimana per i risultati del test. Quattro genitori, un funerale e un erede sconosciuto. Sono gli ingredienti di Un figlio di nome Erasmus, il film di Alberto Ferrari con Luca e Paolo, Ricky Memphis e Daniele Liotti, ma anche con una rediviva e bellissima Carol Alt. Un film che ha anche un valore storico, è il primo film italiano ad alto budget, inizialmente previsto per la sala, doveva uscire il 19 marzo, che affronta la crisi coronavirus con un'uscita in streaming a pagamento su tutte le principali piattaforme. Dal 12 aprile lo trovate su Sky, TIMvision, Chili, Apple TV, Raccoon, Guten, Infinity, eccetera, eccetera. Ascanio, lo spirito libero, Enrico, il manager Vistanozze, Pietro, l'impresario musicale De Borgata e Jacopo, il prete in carriera. Amici, sin da quando, 20 anni prima, avevano condiviso quella vacanza dell'anima travestita da studio, che è l'Erasmus, in Portogallo. Lì si erano divertiti, avevano bevuto, forse anche studiato, sicuramente amato, fisicamente, la stessa donna, quella Amalia, che adesso è dipartita, e li ha chiamati a rivedersi, anni dopo, per presentargli il conto, sotto forma di un figlio che nessuno immaginava di avere. Amalia ha lasciato qualcosa per voi. Un lascito di soldi? Pietro. Perché? Ma che soldi? Non c'è soldi. Sei Herdeiro. Herdeiro. Herdeiro. Herdeiro. Lo guardi noi col portoghese, anche Eredo, lavora si proprio noi. dice Eredo e baby, Baby. che ha esattamente 20 anni. L'anima del baby. Adesso ho capito? No. No, nel senso, per capirci, se questo erdero è stato generato 21 anni fa, mi viene da pensare che. Oddio, ma questo è il nostro figlio. quattro partiranno attraversando l'affascinante terra lusitana, accompagnati da Alice, una ragazza che si offre di aiutarli. Per ognuno di loro la domanda è: sarò io il padre di quel figlio? Ma forse non è la prima, forse la più importante è: chi sono io veramente? Cercheranno di scoprirlo lungo il cammino. Commedia, certo, ma dove si sorride più che ridere a crepapelle e dove talvolta ci si intenerisce. È forse proprio la delicatezza il tratto distintivo di Un figlio di nome Erasmus, un road movie fisico che ne nasconde uno più interiore. In collegamento con noi c'è Alberto Ferrari, regista del film. Esatto, è un road movie nel senso che ci muoviamo per il Portogallo, ma in realtà è un viaggio interiore, perché ognuno dei miei protagonisti lo fa per cercare di, inconsapevolmente sente l'esigenza di mettere a posto la sua vita, che sente incompleta o che ha la percezione che tutto non sia andato come immaginava potesse andare. In effetti è un po' una costante che abbiamo tutti noi, nel senso, tanti progetti che avevamo da ragazzi probabilmente si sono infranti e sono modificati rispetto alle esigenze della vita. Ecco, questa notizia inaspettata fa sì che ovviamente loro comincino a considerare che forse qualcosa non è andata come pensavano e quindi è necessario fare qualcosa. Alberto, molto del film è affidato alle parole che i personaggi si dicono. Parafrasando Moretti, quanto sono importanti le parole che diciamo e quelle che non diciamo? Sì, in effetti questa cosa è molto vera. Le parole sono una forma di linguaggio molto evoluta che noi abbiamo rispetto a tutti gli altri nostri simili che popolano la Terra. E le parole molte volte ci nascondono, nel senso che noi con le parole riusciamo a nascondere i nostri veri sentimenti e anche, a volte, le parole magari dette arrivano prima di afferrare consapevolmente un concetto o un problema che abbiamo dentro, ma soprattutto riescono a dire la verità incontrollatamente. Senti, nel tuo film c'è anche un cameo del mitico Robbie Facchinetti dei Pooh, perché Pietro, il personaggio interpretato da Ricky Memphis, ha un'insana passione per la mitica band italiana. Raccontaci com'è andata con Robbie. Devo dire che la partecipazione di Robbie Facchinetti nel film è stata una delle cose più belle proprio della lavorazione, perché la passione che muove Robbie, la voglia di mettersi in gioco, anche nel giocare con il suo mito, lo fanno veramente una grande persona. E quando gli ho proposto di fare questa partecipazione, questo piccolo cameo nel mio film, lui l'ha accettato veramente con grande amore, grande passione, e questo dà la dimensione veramente di che uomo sia, di che artista sia, in un momento poi in cui veramente poi la sua città, io so che lui è molto molto molto provato anche da questo momento in cui si sta vivendo, ha fatto questa canzone Rinascerò Rinascerai, che sta avendo grandissimo successo in rete proprio anche per il suo amore incondizionato, e questo suo amore c'è anche nel mio film. Io sono molto orgoglioso anche di questo. Now time read, no, guardi, io o so Alexandra Peters. Sì. La professoressa Alexandra Peters. Ci conosciamo? Io ho frequentato il tuo corso 21 anni fa, non ti ricordi? Enrico! Sì, Enrico, sì, certo! Ma stava alla festa? Sì, anch'io ero alla festa con degli amici che però... Ma sono felice di vederti! Anch'io! E alla fine irrompe in tutta la sua maestosa bellezza anche Carol Alt. Eh sì, Carol Alt fa il suo ingresso nel film in modo maestoso. Poi Carol Alt è entrata nel nostro immaginario in quanto top model, donna bellissima, ed è una donna meravigliosa e bellissima ancora oggi. E nel film però gioca in un ruolo di donna normale, una donna che va oltre quello che è il suo aspetto fisico e quindi ce la restituisce in un modo molto autentico, molto vero, e serve tantissimo la sua figura per completare proprio una delle trasformazioni importanti per uno dei nostri protagonisti. Per chiudere, Alberto, il tuo film è il primo italiano previsto per la sala ad uscire in streaming a pagamento. Per chi fa cinema come te, immagino che gli sbocchi finali di un film siano una sala piena di gente e un grande schermo. Come ti senti in questa nuova veste fra l'emergenza e l'esperimento? Sì, in effetti il cinema è condivisione, il cinema è godere insieme in sala, insieme a tanta gente, di quello che si sta vedendo, sentire gli umori, partecipare, sentire proprio, come dire, vivere il film contemporaneamente ad altra gente è una cosa meravigliosa. Però in questo momento in cui il mondo si è capovolto, resta veramente da pensare a come poter dire noi ci siamo ancora e stiamo andando avanti. Chiaramente io penso sia una cosa temporanea, oltre che auspicarlo, ne sono convinto, nel senso, noi torneremo ad andare al cinema e a partecipare, a godere della partecipazione e dell'essere insieme ad altre persone. Quello che mi manca è poter vedere la faccia delle persone che vedono il mio film, sentire i commenti, insomma. Però, come dico, in un momento del genere il fatto di dire proviamoci, il film era pronto, la Igola ha deciso questa cosa e io da autore, da regista sono contento, perché è un modo per poter fare una piccola cosa. Insomma, credo che sia una cosa giusta. Grazie Alberto Ferrari, a presto. Grazie mille a voi per la vostra ospitalità e speriamo che questo momento per tutti passi e poi anche per il cinema. Grazie ancora. Madonna, Campagnolo. Davanti. Ho vissuto un anno a Firenze. Programma Erasmus, conoscete? Programma Erasmus, sì, vagamente. Insomma, ma senti, questo tuo amico può farci avere il nome che ci serve? Ve l'ho detto, lavora lì dentro, mi farà avere i sussidi di maternità. In che senso? Aspetto un bambino, sono al terzo mese. E allora non dovresti fumare, neanche bere, soprattutto bestemmiare. Però ve lo dico, la cosa vi costerà un po'. Quanto? 500. Che sei fatto? 500 è tantissimo, un botto. Guys, 5.000. Botacci su. Pietro, mica sono 100 io, che 5.000? 3.000 per il mio amico e 2.000 per me. Ma si vede che ha studiato in Italia, eh? Non ci penso neanche, guarda. E adesso giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso, un film che ha animato la parte iniziale, l'unica, di questa stagione. Ascoltate la clip. Per quanto riguarda l'epoca, ha già un'idea o posso farle delle proposte? Ecco, in realtà pensavo al 74. 1974? Sì, 16 maggio del 74 a Lione. Beh, molto preciso. Sì, perché quel giorno ho incontrato una persona che ho amato molto. È un vero e proprio viaggio nel tempo questo film. Se l'avete già individuato, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it col titolo del film, il vostro indirizzo. Ci sono due DVD che vi aspettano, più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo e parliamo di un film su un grande campione, uno dei più grandi di tutti i tempi nel mondo del calcio, Leo Messi, firmato Alex Della Iglesia. Fra poco. Ci sarà l'esposizione universale del 2015, si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. La rosa purpurea. Ha ganato l'Argentina! Leo è genio e sacrificio. Il talento sta ahí. Un diamante de los mejores. Qué lindo sería hacer 5 segundos. Estamos ante un grande, sin duda. Leo, al final solo hay uno. Gracias a Dios que Messi existe. E ora parliamo di Lionel Messi, un fenomeno, un alieno, un diamante dei più preziosi. Lionel Messi, ovvero come diventare il numero uno del calcio mondiale a dispetto di una natura beffarda che ti ha fatto piccolo piccolo in un mondo di giganti. Ma attraverso quale intricato percorso Messi è diventato il numero uno del calcio mondiale? Come ha potuto sfidare Maradona nelle classifiche dei più grandi? Quali sacrifici hanno dovuto sopportare lui e la sua famiglia anche solo per giocare a calcio? Interrogativi cui prova a dare risposte un film intitolato semplicemente Messi, ora sulla piattaforma di Netflix. Dirige Alex de la Iglesia, basco di Bilbao, lanciato dal Almodóvar, regista horror, grottesco, noir, con tanti premi in bacheca, fra cui un veneziano leone d'argento. Insomma, uno tosto, uno vero. Proprio a Venezia 2014 lo aveva incontrato e intervistato Boris Sollazzo quando fu lanciato il film Messi nelle giornate degli autori. Boris, che ricordo hai di quel film e di quell'incontro? Strano film Messi visto da Alex de la Iglesia, intanto perché il regista non è di quelli che ti aspetteresti per un documentario del genere. Lo stile di de la Iglesia e anche gli argomenti della Iglesia non poco si attagliano al calcio e in generale a un campione nato tra virgolette in laboratorio, nel senso che è un campione che non ha costruito la sua forza nei barrios, cioè non è Tevez, non è Maradona, ma è un ragazzo che da preadolescente è arrivato a Barcellona e ha fatto una vita di fatto borghese, la faceva anche prima. Questo però crea secondo me un fattore interessante, perché non c'è il Capadia che racconta Maradona, oppure il Maradona raccontato nella sua avventura dei Dorados, cioè non c'è uno sguardo innamorato o comunque allenato, c'è uno sguardo alienato e si capisce immediatamente dal fatto che se c'è un grande rigore nel raccontare la carriera di Messi da parte della Iglesia, e dall'altra c'è quest'idea interessante di mettere attorno a un tavolo le persone che lo hanno incontrato, le persone che sono state importanti per lui e che lui ha reso importante, quindi compagni di squadra, grandi rivali come il dirigente Valdano. E questo fa sì che il film si divide in due parti, quella più di repertorio, quella più biopic, e l'altra una parte estremamente verbale in cui vai a pescare delle cose interessanti, in cui vai a vedere qualche inclinatura nella figura di Messi, e però ti rendi conto che a un certo punto l'uomo che ha consacrato la sua carriera all'imitazione di Maradona, all'emulazione di Maradona, è stato anche allenato da Maradona, eppure Maradona non c'è. E questo rende il film da una parte incompleto, dall'altro sospeso in un senso altro, nel cercare di raccontarci che Messi forse è proprio quello che appare, un ragazzo non particolarmente caldo, tra virgolette, ma estremamente compresso, no? E per cui la vittoria è diventata un dovere e non più un piacere. Il risultato è interessante, il film secondo me rimane molto freddo, e però questo potrebbe non essere un errore, potrebbe non essere sbagliato, perché il calcio ha una retorica, una sua retorica che a volte è eccessiva, e metterlo sotto ghiaccio e guardarlo in maniera più analitica probabilmente nel caso di un fenomeno mediatico prima ancora che calcistico come Messi può essere ancora più interessante. Ecco, non vi scalderà il cuore, però vi farà azionare il cervello, quello sì. E sentiamolo allora Alex de la Iglesia raccontarci perché lui, che di calcio non è nemmeno così appassionato, abbia voluto dedicare un film a Leo Messi. Digamos che mi interessa e mi attrae lo ajeno. Me gustaba la idea de poder yo también averiguar por qué un jugador de fútbol es tan bueno, o cómo, o cómo alguien que nace en un barrio muy humilde de una ciudad en Argentina, de Rosario. Diciamo che mi attira l'alieno, come un ragazzo che nasce in un barrio di una città argentina come Rosario finisca per diventare un enorme personaggio, ammirato da tantissima gente e allo stesso tempo odiato da moltissima gente, perché il calcio, come la religione, si ama o si odia. E ho sentito la necessità di raccontare la storia attraverso la testimonianza della gente che lo conosce, di come è riuscito a uscire da tutte le difficoltà, perché le cose facili per Messi sono state sempre difficili, a partire dalla questione fisica. Per terminare siendo un jugador de fútbol, es alguien que incluso fisicamente no daba la talla, perfectamente dicho. Non aveva la stazza per giocare, era troppo basso. Si è sottoposto a un trattamento ormonale molto caro che a Buenos Aires nessuno poteva pagare ed è la ragione per cui è dovuto andare fino a Barcellona per trovare una società che gli pagasse quelle cure. E quando era a Barcellona ha dovuto aspettare mesi per giocare, prima che fosse formalizzato il contratto. Per cui tutto, soprattutto gli inizi della sua carriera, è stato molto complicato. Tutto molto complicato, soprattutto negli inizi, no? E ahí te das cuenta, yo ahí descubro que quizá es su familia la que le protege. E quel che ho scoperto è che la sua famiglia l'ha protetto e che ha creato una specie di bolla intorno a lui per permettergli l'unica cosa che veramente chiedeva: giocare a calcio. Che è jugar al fútbol. Es alguien al que no le gusta hablar. Él habla con los pies. Messi è uno a cui non piace parlare. Lui parla con i piedi. È un po' come un personaggio dei film di John Ford, che è quello che fa. E questo mi piace molto. Che è lo che hace. Eso me gusta mucho. Nel suo documentario Messi parla solo con i suoi piedi. È una scelta? It's a choice. Es una opción que hemos tomado porque creo que es más interesante a nivel ficción, no a nivel narrativo. Estar descubriendo quién es alguien sin tenerlo presente. È una scelta, un'opzione che rende molto più interessante il film in termini narrativi. Se Messi fosse apparso nel documentario parlando di se stesso, avremmo perso il mistero. Il film ha una struttura da intrigo. Dobbiamo incontrare qual è la chiave, l'essenza di questo personaggio carismatico. E scopriamo che è la sua infanzia, e in particolare la relazione con sua nonna, quella che spinge al calcio, quando i suoi due fratelli giocavano meglio di lui. Quando sus dos hermanos jugaban mucho mejor que él, según dicen. Su abuela es la que le dice: tú eres especial y tú puedes hacerlo, ¿no? È la nonna che gli dice: tu sei speciale, tu puoi farlo, quando va a giocare e arriva alla cintura degli altri giocatori. Ed è impressionante vedere come questo ragazzo riesca a superare se stesso. E lo deve all'amore della nonna. Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Ci parli dell'idea di ambientare tutto in un ristorante, anche se in verità sono due. Entonces quería hacerlo más cinematográfico y en ese sentido pues buscamos un entorno como una cena, ¿no? Per renderlo più cinematografico abbiamo costruito un contesto, una scena di amici che chiacchierano della figura di Messi, come in Broadway Danny Rose di Woody Allen, con un gruppo di amici che parlano di persone estranee che ammirano o che rispettano. Ma questa soluzione era impraticabile, impossibile, riunire tutti questi personaggi nello stesso luogo e in una stessa volta. A parte che sarebbe stato difficile girarlo correttamente. Così abbiamo mentito. Abbiamo trovato due scene che abbiamo decorato alla stessa maniera, una a Buenos Aires e una a Barcellona. Girare una scena in quel contesto ti permette di conseguire maggiore naturalezza e relax mentre parli. I personaggi stavano mangiando realmente e questo distendeva la conversazione e la rendeva più amena. Penso che si noti nel documentario, più di una classica intervista televisiva. Más amena, ¿no? Y creo que se nota en el documental. Si hubiéramos hecho una entrevista televisiva, quizá el resultado hubiera sido distinto. Alex Della Iglesia, La Rosa Purpurea, per raccontare il suo Messi, disponibile sulla piattaforma di Netflix. Giochiamo ancora insieme, seconda traccia del film misterioso di oggi. Cos'è che le piaceva tanto degli anni 70? Ho l'impressione che la vita fosse più semplice. C'erano i ricchi, i poveri, la destra, la sinistra. Difendevamo gli immigrati senza preoccuparci per l'economia. I religiosi erano meno fanatici della religione. E come sempre, se avete indovinato di che film si tratta, scrivete il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco riveliamo tutto, anche il titolo di questo grande film di questo inizio di stagione partito al Festival di Cannes dello scorso anno. Evocative di Yellowstone ci portano nel mondo delle serie TV, o almeno per noi della Rosa, di quelle serie TV che sono solo una forma allungata di cinema. E qui di cinema ce n'è davvero molto, a partire dal mitico, fatemi usare l'aggettivo perché io l'ho amato sin dai tempi di Senza via di scampo e Balla coi lupi, Kevin Costner, protagonista e produttore, al regista, ideatore e sceneggiatore Taylor Sheridan, che di dimestichezza col tema della convivenza fra pelle rossa e cowboy moderni ne ha dimostrata già molta dirigendo il bellissimo I segreti di Wind River qualche anno fa. Yellowstone, disponibile su Now TV, racconta la storia di un ranch grandissimo, forse il più grande degli Stati Uniti, e della famiglia che lo detiene sin dai tempi dei pionieri, la famiglia Dutton, formata da John Dutton, il patriarca che ha il volto di Kevin Costner, e dai quattro figli. Il ranch confina con una riserva indiana, guidata dal capo tribù Rainwater, con la quale i rapporti sono di fredda diffidenza che sfocia in cordiale odio. A complicare le cose, metteteci che tutta quell'area è oggetto di un piano di lussuosa speculazione edilizia, capeggiata un uomo senza scrupoli, Dan Jenkins, cui dà il volto Danny Houston, e avrete il mix esplosivo di una delle serie che meglio hanno reinterpretato un genere, come appunto il western, negli ultimi anni. Non accade niente in questa valle che io non venga a sapere. Nel caso tu non lo sapessi, il paradiso non esiste. Contro chi combattiamo? Contro tutti. Con noi c'è l'amico Mauro Gervasini, autore recentemente del libro Cuore Acciaio sulle arti marziali al cinema, ma grande conoscitore del western e sostenitore di questa serie. Mauro, in Yellowstone Kevin Costner torna all'amato western, anche se contemporaneo, con un personaggio molto più ambiguo e sfaccettato di quello che sembra inizialmente, dove giusto e legale spesso non coincidono. Sì, Yellowstone è un western contemporaneo, quindi è ambientato nel nuovo millennio, ma certamente gli echi del genere sono molto forti e gli elementi caratteristici ci sono tutti. Kevin Costner torna quindi al genere che forse preferisce, è il regista e l'interprete di Balla coi lupi, che nel 1990 in qualche modo rinvigorì un filone, un genere tipicamente americano che sembrava quasi estinto, insomma. E invece con Yellowstone, grazie a questo straordinario autore che è Taylor Sheridan, che già conoscevamo per alcuni film, torna prepotente, e torna prepotente anche Kevin Costner, benché in un ruolo sicuramente più ambiguo di quelli suoi soliti, che sono sempre stati ruoli molto positivi. L'ultimo western che ha fatto lui, western vero, è del 2003, Open Range, Terra di Confine, di cui era anche regista, bellissimo secondo me, forse il suo miglior film come autore. Però con Yellowstone entriamo in una dimensione completamente nuova, prima di tutto perché è, una volta si sarebbe detto, uno sceneggiato, un teleromanzo, forse teleromanzo è il termine che meglio lo descrive per la sua lungherezza, per il suo spessore, e il personaggio interpretato da Costner è comunque un cowboy spigoloso e prepotente, proprietario di un ranch grande come tutto il Rhode Island, quindi insomma un'estensione enorme, e difende questa sua proprietà, la roba, potremmo dire, utilizzando un termine caro al Verga, la protegge con i denti e naturalmente anche col piombo. Non è né buono né cattivo, ma devo dire che è un personaggio che credo sia perfettamente nelle sue corde. Una serie che sposa la complessità come canone anche narrativo. Non ci sono buoni e cattivi, niente cappelli bianchi e cappelli neri. Ognuno vuole solo sopravvivere ad ogni costo. Secondo me l'aspetto veramente più interessante che ha saputo focalizzare, sottolineare e definire Taylor Sheridan, l'autore, è proprio questo fatto che tutti e due i personaggi agiscono però senza esclusione di colpi e senza pelo sullo stomaco, quindi si entra in una dimensione morale che è in realtà una dimensione amorale, perché mai come in Yellowstone il fine giustifica i mezzi sia da una parte che dall'altra, e così alla fine non sappiamo più, o perlomeno non lo sappiamo adesso, poi magari nel prosieguo della serie i connotati saranno più definiti e più chiari, però non sappiamo mai bene da che parte stare, o forse ancora meglio, stiamo perfettamente da entrambe le parti. Grazie a Mauro Gervasini che ci ha fatto entrare nell'atmosfera di Yellowstone, disponibile su Now TV, la piattaforma on demand di Sky. Ora, ultima pausa, fra poco ci trasferiamo a casa di Giorgio Pasotti per farci raccontare la quarantena cinefila dell'attore bergamasco. La rosa purpurea. Quattro applausi. Rispetto. Ma dove li trovi tutti questi casi umani? Oh, casi umani, sì, c'ho casi di cuore, dai, tieni due, ancora due o tre puntate se ne puoi entrare. Francesca, ma tu sai ballare? Non ho molta esperienza, ma mi muovo bene, sì. Andiamoci a prendere il successo. C'è un messaggio che riguarda tuo papà. Papà, non puoi stare qui da solo. Non sono solo, va bene così. Che cosa conti di fare? Voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto. Era il 2014 quando Giorgio Pasotti, attore lanciato in Italia da Daniele Lucchetti con il suo Piccoli Maestri, esordiva alla regia con un progetto molto personale e apprezzato dalla critica, Io Arlecchino, di cui avete sentito una breve traccia. Un piccolo film sul senso di appartenenza e sulle radici che chiamano forte anche quando sono lontane. La storia di Paolo, conduttore televisivo affermato, che riceve una telefonata. Il padre, che da anni vive lontano in un piccolo borgo montano bergamasco, è stato ricoverato in ospedale. Ebbene, questa è la chiamata che in questi drammatici giorni un figlio non vorrebbe mai ricevere, soprattutto se bergamasco come Pasotti, e ancor più se i genitori li hai davvero lontani e precisamente a Bergamo. Ecco perché ci sembrava importante farci raccontare la quarantena cinefila di questa settimana proprio da Giorgio Pasotti, che ci ha mandato questo messaggio dalla sua casa di Roma. Ciao a tutti gli amici della Rosa Purpurea, da Giorgio Pasotti in quel di Roma, segregato in casa da ormai 4 settimane. Nulla, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori e raccontare un po' come sto passando le giornate. Insomma, a discapito di tutti quelli che si lamentano, devo dire la verità, io sono abbastanza sereno, tranquillo, ho anzi riscoperto molte cose che non facevo da tempo, che avevo totalmente dimenticato. E parlo di cose anche sciocche come pulire gli ottoni di alcuni oggetti antichi che ho per casa. Cosa che mi faceva fare mio padre quando ero veramente ragazzino nella sua bottega d'antiquario in quel di Bergamo. Sono ovviamente a stretto contatto, a proposito della città, con i miei genitori che sono tuttora nel bel mezzo dell'epicentro di questo maledetto virus. Ho papà e mamma, nonché innumerevoli amici e parenti in città. Ho anzi purtroppo perso una zia qualche giorno fa causa coronavirus, quindi insomma è un messaggio questo a chi non avesse ancora le idee ben chiare su cosa fare. Ecco, mi raccomando, state in casa perché c'è bisogno ancora di un piccolo sacrificio, ma va fatto, passerà, perché questa maledizione passerà, ma bisogna avere ancora un po' di pazienza, quindi mi raccomando, state in casa, non prendete alla lettera o interpretate al meglio quello che sono le nuove normative sul modo di comportarsi. Quindi, anche se c'è chi sostiene che si possano fare passeggiate con i bambini, jogging all'aperto, insomma, se io posso consigliarvi, dato che conosco molto bene la situazione in quel di Bergamo, vi posso assicurare che è meglio, se possibile, starvene tranquillamente in casa. E che cosa fare in casa? Ecco, al di là di lucidare gli ottoni, che credo che interessi a pochi, se non solo al sottoscritto e a pochi altri, io mi sto dando, le letture di quei libri che non leggevo, che avevo comprato ma avevo parcheggiato da anni, per via di impegni, per via di ritmi ormai, assurdi, che la vita ormai ci impone. Per cui avevo una bella pila di libri e ho iniziato a leggere e finire alcuni, che stavano in cima, tra cui Hanno tutti ragione di Paolo Sorrentino, La peste di Albert Camus, che veramente vorrei suggerire a coloro i quali vogliono leggere un libro interessantissimo che parla esattamente di quello che noi stiamo vivendo oggi. Camus racconta della peste arrivata in questa cittadina di 260.000 abitanti, se non erro, i quali, gli stessi abitanti, all'inizio dell'epidemia vedevano questa malattia con una sorta di distacco, di leggerezza, anzi quasi sostenevano che insomma non era nulla di che, non c'era nulla di cui preoccuparsi, dopodiché insomma la peste è arrivata e ha fatto centinaia di migliaia di morti, esattamente quello che è successo a noi. Abbiamo tutti un po' sottovalutato, preso alla leggera questo virus, dopodiché ci siamo accorti che non era affatto proprio una semplice influenza, come dicevano alcuni che ridevano. Mi ricordo alcuni posti, i primi posti, alcune persone che insomma sostenevano che non era altro che una semplice influenza e si stupivano sul perché alcune persone erano invece già preoccupate. Ecco qui la risposta, l'abbiamo avuta insomma col tempo. Detto questo, invece, parlando di cose un po' più leggere, sto recuperando anche molte serie TV che avevo in mente di vedere, tra cui, se posso, senza fare troppa pubblicità, non so se posso farla, ma lo faccio perché è una serie che mi è piaciuta tantissimo, si intitola You. Hanno fatto solo due stagioni, ma molto coinvolgente. Dopodiché mi sono rivisto film, soprattutto quei film che ho già visto ma amo moltissimo. Sono un appassionato di cinematografia scandinava e nella fattispecie di cinema svedese, danese, e vorrei citare alcuni titoli di film che ho amato tantissimo, che spero chi volesse vederseli, insomma, spero che possano piacere altrettanto anche a loro. E cito tre titoli: Festen, Le mele di Adamo e L'eredità. Tre film danesi che raccontano uno in maniera molto ironica, uno in maniera un po' più drammatica, e vicissitudini familiari che un po' viviamo tutti noi, ma che forse solo loro riescono a raccontare in maniera così profonda, tanto da scuotere l'animo di chi li vede. Ed ecco qui, per finire con una nota un po' più allegra, che faccio io a casa? Passo insomma il tempo anche a pulire casa, nonché a cucinare, nonché ogni tanto ad allenarmi sul terrazzo condominiale dove non c'è nessuno. Ecco, questo è un buon consiglio: se avete terrazzi condominiali, non avete giardino come il sottoscritto, o case troppo piccole per allenarvi, il terrazzo condominiale, che nessuno mai usa, è una buona occasione per fare del movimento fisico. Grazie e rimanete in casa, e spero passi presto. Ciao. Grazie Giorgio Pasotti, anche a te, a rivederci in tempi più sereni. Ora le recensioni e un video dai game della scorsa settimana. Cominciamo con Hobbs & Shaw. Scegli una porta. Quella lì? No, quella è mia, scegliene un'altra. Che hai nel cervello? Avevi ragione, è la tua porta. Ci sono un sacco di cattivi lì dietro. Spin-off di Fast and Furious, vinto da Maria Luisa Megalini di Mestre e Yuri Cavallini di Forlì. Ci facciamo raccontare questa uscita un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, il film è quello che vi aspettate, forse persino meglio: muscoli, motori, senso della famiglia, velocità e sentimenti, secondo la tradizione della saga. Ma questo Hobbs & Shaw è il primo spin-off ed è il risultato di una prima grossa crepa all'interno della famiglia, ovvero il litigio fra Dwayne Johnson e Vin Diesel. Le due star si trovano in momenti strani della loro carriera. Da una parte Diesel si è ritrovato a guidare un franchise gigantesco ma non a generare particolare interesse fuori da esso, e dall'altro Dwayne Johnson è riuscito a curare la sua immagine a livelli maniacali e si ritrova oggi a essere uno degli attori più popolari in circolazione, ma non essere protagonista con quello che ancora oggi è di gran lunga il suo personaggio di maggiore successo. Entrambi quindi si sono sentiti di avere il diritto di far dare la propria impronta alla saga. Ed Hobbs & Shaw diventa quindi il modo che ha Johnson per prendersi la sua indisturbata fetta di gloria, facendosi affiancare da una spalla efficace ma non altrettanto esigente come Jason Statham. E il Blu-ray? Ottimo riversamento, ricchi extra, ma mi pareva interessante raccontarvi questo retroscena. E l'altro film con il quale avevamo giocato era Roma di Alfonso Cuarón. Stavo sola. No importa lo che te digan, siempre estamos solas. Un film che ha marchiato forte la stagione passata, lo hanno indovinato per primi Willy Vecchiato di Noale, provincia di Venezia, e Margherita Canuti di Milano. Saranno loro a ricevere l'edizione On Video di Roma, di Cuarón. Giulio. Arriva in On Video dopo essere passato in sala e insieme essere già stato nelle nostre case su Netflix, e dopo aver vinto Venezia, gli Oscar, i Globe, questo ritorno al dialetto cilango e al piccolo film in bianco e nero di Alfonso Cuarón, che in Roma rende un omaggio neoespressionista alla donna che trasformò l'infanzia in una splendida avventura, come dire, spaziale. Cleo, giovane domestica india nel quartiere middle class di Mexico City, che dà il titolo al film, ha protetto il regista e i tre fratelli, anche a costo della vita, da terremoti, veleni borghesi, affogamenti e Los Halcones, fascisti addestrati dalla CIA per proteggere tra 1970 e 71 il presidente Echeverría Álvarez. È superba la partitura audio stereofonica e mirabile la ricostruzione maniacale viscontiana del set della Casa Natia e del massacro del Corpus Christi, quando i Falconi uccisero 120 studenti. Il Blu-ray viene della serie americana Criterion ed è un prodotto d'eccellenza assoluta, con 3 ore di extra che ne fanno una delle migliori edizioni dell'anno. Giulio, passiamo a un paio di consigli dai palinsesti televisivi della prossima settimana, cominciando da domenica, quando alle 20 su Rai 4 c'è uno dei film d'animazione più originali degli ultimi anni e anche più per adulti in un certo senso, è Gatta Cenerentola. Cresciuta su una nave Mega Ride, Cenerentola, dopo la morte del padre, è vittima della matrigna, delle 6 sorellastre, del malvagio Salvatore Lo Giusto, detto Orè. Un'animazione in 3D, uno dei film più folgoranti italiani degli ultimi anni, da una casa di produzione napoletana indipendente, animazione con linguaggio adulto, con la sfrontatezza di un manga e un'ammirabile costruzione scenografica e drammaturgica. Una favola noir ispirata al racconto di Basile, ma in grado di guardare al futuro, al cyberpunk, in cui non ci si fa scrupolo di mostrare nudità, travestitismo, droga, violenza, in cui al vissero felici e contenti si associa un punto interrogativo disilluso. Rivendicando le sue radici partenopee, non addolcendole né edulcorandole, Gatta Cenerentola proietta lo spirito antico della fiaba di Basile in un futuro possibile, affermandosi come un gioiello della felice animazione italiana. Spostiamoci al venerdì successivo, Giulio, perché è molto importante. Fuori orario, su Rai 3 alle 1:10 manda in onda Checkpoint Berlin, ma è l'inizio di un vero e proprio sbarco dell'amata trasmissione fuori orario sulla piattaforma di Rai Play. Questa è una svolta epocale, perché poi i film di fuori orario li dovevamo vedere alle 4 del mattino, invece d'ora in poi sarà possibile anche vederli su Rai Play. Ne parleremo più diffusamente la prossima settimana, però raccontaci questo Checkpoint Berlin. Dal Festival di Rotterdam alle nostre case, grazie a Fuori Orario, su Rai 3 Fabrizio Ferraro, dopo gli indesiderati d'Europa, continua ad attraversare confini, intrecciare epoche, cercando percorsi trasversali e interstizi tra le retoriche contrapposte riemerse nel trentennale della caduta del muro. Alterna materiale d'archivio a colori rifilmati e un presente in bianco e nero, rievocando le storie di chi ha tracciato la linea del muro e di chi è morto per averla varcata. Ferraro prosegue nell'invenzione di questa camminata filmografica saggistica, seguendo un regista immerso in meditazioni nel memoriale turistico della Berlino contemporanea e un misterioso passeur che, percorrendo il muro, sa trovare aperture e possibilità di fuga. Un film bellissimo, come tutti quelli di questo regista incapace di compromessi e come quelli proposti da Fuori Orario, riserva di resistenza cinefila che, attenzione, è sbarcata su Rai Play con un bottino di film da non perdere. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, come sempre il tempo per rivelare il nostro DVD game di oggi. Abbiamo giocato con La Belle Époque di Nicolas Bedos, film straordinario lanciato al Festival di Cannes lo scorso anno, è arrivato nelle sale italiane l'autunno scorso con Daniel Auteuil e Fanny Ardan. I vincitori la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea, dove vi aspettiamo sabato alle 18 come sempre con la nostra resistenza cinefila. State al sicuro, ci sentiamo fra 7 giorni.